Maestro Ferrazzi. Benvenuti per la gente a Interferenze. Rimaniamo nell'ambito del ferramento e dopo l'associazione Il Tassello abbiamo con noi le doppie viti. Ciao ragazzi. Buonasera a tutti, buonasera a tutti, cari amici di Radio Tassello. Io posso capire che voi vi siate appena svegliati, ma non è sera. No, come non è sera? Io vivo sul fuso orario di Honolulu. Ah beh, allora è giusto. Cioè, sappiamo neanche qual è il fuso orario di Honolulu. Però va bene così, va bene così, non c'è problema. Benissimo ragazzi, presentatevi, voi siete... Ah, io sono Flavio Santomuro e c'è qui il maestro Jack Giacalone. Buonasera a tutti. Benissimo ragazzi, allora raccontateci un po' la storia delle doppie viti. Ma le doppie viti sono un gruppo, diciamo, la musica più interessante a livello mondiale negli ultimi 35 anni. Vero, concordo. Siamo nati nel 2008 come formazione attuale. Scusami se ti interrompo, ma già mi ricordo molto tempo prima Buonanima di Freddie Mercury ti aveva chiesto comunque di scrivere delle cose, giusto? Sì, mi aveva chiesto, però alla fine erano troppo intellettuali per lui, non valorizzavano le sue corde vocali. Però vabbè, attualmente abbiamo altri lavoretti in ballo di cui teniamo nascosto per problemi burocratici, copyright, esatto, si può, giustamente, no? Sì, le etichette sono cattivissime. Dicevamo, sì, noi 2008, anno di formazione, io e il maestro Jack Giacalone, qua suonavamo già da qualche anno prima, ci siamo presentati solo noi questi oggi perché siamo fondamentalmente i più belli del gruppo. Sì, perché già... grazie, bel complimento. Infatti volevo venire da solo. grazie, sembra gentile. Gli altri tre componenti sono il maestro Treno Moreno alla batteria, il maestro Lungo alle tastiere e il sindaco Cirio al basso. Oggi non sono qui per motivi. Io posso pensare che il sindaco Cirio abbia comunque un sacco di problemi. Su quello ce ne siamo accorti. Bene, e doppie viti, sì, che altro dire, doppie viti nasce... Non hai detto ancora niente, non hai detto altro solo... dire, ma sai, se uno pensa e dice tutto, anche più di quello che... quindi doppie viti, che altro vuoi sapere? No, allora, in realtà voglio sapere, come siete nati, perché il nome doppie viti? Allora, come siamo nati con adesso uno guarda, la sto aspettando questa risposta, dilla! È stato tanto tempo. Dai, questa la tagliamo, che neanche quando ero povero facevo certe battute. Siamo nati, appunto, c'è stata una selezione dei migliori membri. Siamo come gli Harlem Globetrotters, abbiamo selezionato accuratamente i membri facendo provini e provini per mesi e mesi. Ma tipo una sorta di amici? No, proprio ufficiali, provini ufficiali, tipo X Factor, cioè dietro la scrivania. Ma sai che infatti quel platform l'avevo già visto da qualche parte, non mi ricordavo dove. Nelle sale prove qua vicino. Vero, è venuta anche la Maion che diceva, no, sto batterista non va bene. Sì, erano gli amici delle doppie viti, era il format. Infatti l'hanno comprato in Cecoslovacchia, so che quest'anno lo stanno facendo. Bellissimo, sì, perché si è girato verso Jack, giusto? E diceva, che cazzo mi ha chiesto? E ogni tanto passano le... Sì. Infatti No, dalla formazione, appunto, dal 2008 abbiamo fatto i provini, bla bla bla. Sì, adesso stiamo bene, siamo in forma. In salute, direi. Allora, ok, ma doppie viti si riferisce proprio all'attrezzo in sé? Ma perché esiste un attrezzo che... Esistono le viti a doppio filettamento, cose un po' strane, ma è non preparato, te le so spiegare perché non è la sede opportuna. Le hai inventate tu? No, c'erano già. Doppie viti, diciamo che trae nome fondamentalmente dai testi, che sono ricchi di doppi sensi e possono essere leggibili, interpretabili secondo più punti di vista. È un po' la nostra forza, quella di cercare un'ironia amara, sapor cicuta, piuttosto che una serietà finta. Sì. La si mangia, sapor cicuta, no, la cicuta è meglio che non la si mangia quella. Però l'assaggi e rimani un attimino amara, diciamo. Doppie viti, poi niente, il nome è stato fissato quando abbiamo sentito l'esigenza di distinguerci dalle mezze seghe. Beh, giustamente, comunque avete ragione da questo punto di vista, adesso, perché voglio dire, sentendomi nei live siete veramente bravi. Grazie, questo, grazie, molto, molto gentile. Però vabbè, questa è un'altra cosa, ma secondo me è un complimento. Perché distinguersi dalle masse è anche questo, cioè fare della musica divertendosi è una cosa bellissima, secondo me. È personalmente è l'unico modo che vedo. Bravo! È l'unico modo per suonare. Ma quando le persone vi vedono in live, la cosa divertente è il fatto appunto di vedervi divertiti. Sì, cioè certo. Voi vi divertite un casino a suonare, ridere. Cioè, Flavio spara un casino di cazzate ed è simpaticissimo, capito? Poi tu gli vai dietro, il lungo gli va dietro. Ma no, diciamo che il lungo ci viene davanti. Il lungo mi sa che sì. Sì, decisamente. Cioè, bello, bello, veramente bello. Oggi, grazie, grazie. Il sindaco, forse il sindaco è quello che cioè, un po' più tranquillo. Beh, il sindaco è una figura istituzionale. Comunque giusto. Mantenere un sindaco... certo tipo. Beh ragazzi, dai, allora fate io, vabbè, che non è XML, sì. Dai, vi facciamo un pezzo in lingua arnaina. Mi hai tolto le parole di bocca. Sì, ti ho tolto i gargarismi dalla gengive. Ti facciamo facciamo un pezzettino di canzone, diciamo, uno dei nostri cavalli di battaglia di maggior rilievo, in bocca al lupo. Crepi. Grazie. Però, anzi, sì, questa, vabbè, dopo. Aspetta, a partire a me, te non è che devi stavo prendendo la velocità. 1, 2, 3, 4. Giro un virus che si attacca alla fantasia e trasforma ogni fiaba in una piccola mania. Il sintomo è ascoltare, annuire, rigirare per poi rivalutare ciò che è bene e ciò che è male. Io l'ho preso oggi in treno da un infante, chiedeva con l'orsacchiotto in giro tra la gente perché l'eterna fine da felici e contenti spetta sempre i belli e giusti, mai ai perdenti. Non credo a nessun ruolo che deciso a tavolino, solidale al mostro fin da quando ero bambino. Non vedo una minaccia negli alieni dallo spazio e mi sento più vicino al lupo che non perde il vizio. Non credo a nessun ruolo che deciso a tavolino, solidale al mostro fin da quando ero bambino. Non vedo una minaccia negli alieni dallo spazio e mi sento più vicino al lupo se non perde. Avacci Rugaz. Niente filippino. Parlateci un po' di questa canzone. Ma In Bocca al Lupo è forse il nostro primo pezzo, la prima canzone che abbiamo scritto. Ma è inteso un po' come augurio? No, okay. È inteso come lupo proprio. Nel senso, sì, naturalmente In Bocca al Lupo è un augurio, però il risvolto che ha all'interno della canzone è quello proprio del lupo che non perde il vizio, quindi somiglianza verso i difetti e le cose meno nobili, ecco, della vita di tutti i giorni. Quindi io mi ricordo che mio nonno diceva sempre: chi nasce rotondo non può morire quadrato. Quindi è più o meno la stessa identica cosa, cioè la stessa cosa, perché tu dici il lupo non perde il vizio, no? Eh no, che non lo perde. Sì, è vero, non è difficile diventare quadrati, a meno che se nasci quadrato, magari con una smussatina agli angoli, poi magari diventato. Però in effetti sì, sono problemi di geometria della quale non ci curiamo. Non ce ne frega un cazzo, no? Cioè, con dire, tutto il rispetto tutto per il nonno. Con tutto il rispetto per anche il perché poi le ciambelle mica escono sempre col buco. Ma tu pensi sempre a mangiare, ma non lo so io allora. Ma dimmi un po' invece, perché per te gli alieni non sono una minaccia? Da che cosa arriva questa frase? Ma all'interno del pezzo uno comunque cerca parole chiave, rime, cose, immagini visive belle. Non è che mi sono mai fatto troppi viaggi sull'astrologia nella storia. Ma credo. Presidente, mi avevi detto che questi qua erano gente informata, seria, non vedi questi. No, beh, ma ad esempio, certo, qualche riflessione la puoi fare. Ad esempio quando ho scritto quella canzone per il mio amico Morgan, com'è che fa quella dei marziani, dei. praticamente... altre forme di vita. Ecco, quella canzone gliel'ho scritta. Ah, scritta tu. Sì, gliel'ho scritta. Ma io ho notato la tua timbrica. È una volta, è una parte 2 di altre forme di vita. Sì, sì, poi dopo leggermente modificata. Sì, vabbè, qualche riflessione naturalmente c'è. Se vogliamo parlare di alieni possiamo farlo per tutto il pomeriggio. Io credo fortemente nella presenza di alieni, ma ancora di più di lupi che non perdono il vizio, mettiamola così. Bella, bella, mi piace questa, mi è insoddisfatto. A livello di risposta, dico, di risposta, ma soprattutto perché non si può essere amici degli alieni? Vero, vero, condivido. Perché non ci siamo ancora presentati, presumo. Ah, io so che comunque su Marte il sabato sera c'è la vita della Madonna. Ma ho visto anche un film con con Schwarzenegger l'altro giorno. Che cazzo c'entra? Ma poi atto di forza. Atto di forza, bravissimo. E beh, cosa facevano il sabato sera in atto di forza? Si buttavano fuori e gli esplodevano gli occhi. Perché c'era tipo... allora, erano su Marte, però l'aria non era bonificata, quindi c'era, non so, una percentuale di qualche merda in giro, e loro se uscivano fuori gli esplodevano gli occhi. Sì. Faccio rugazzi. Ah, giusto per rimanere in tema, no? Dici una cosa. Ok. Ma io so, per fonti traverse... Non dritte. Esatto. Che tu hai scritto anche delle canzoni per Gigi D'Alessio, vero? Ma Yamma Bell, voglio. Sì, però dopo non gliel'ho più date perché non c'ha l'accento giusto. Ma io infatti, cioè, su alcune canzoni ho sentito che proprio non c'aveva quella cosa. È il cuore, la passione. Questa è davvero la domanda. Era questa davvero la domanda. No, a parte gli scherzi. Ma a quale canzone siete invece legati di più? C'è sicuramente una forse che vi può rappresentare di più rispetto ad un'altra. Ma adesso non so, il maestro Jack, intanto che ci pensa, che vedo che ha la faccia pensierosa, ti do la mia risposta di istinto così. In realtà non è che personalmente c'è un pezzo o un altro a cui mi leggo di più, okay? È come se le canzoni nascono, vengono prima composte, poi arrangiate. E poi dopo, almeno dalla mia parte, c'è come un lasciarle andare, poi dopo sta l'ascoltatore a legarsi più una o all'altra. Però io personalmente, quella che, a cui sono più legato è quella che devo ancora scrivere. Quanti ne avete scritti? Per noi o per Gigi D'Alessio, per Zucchero? No, per... allora lasciamoli perdere. È gente di un altro, cioè di una... Non un po' competere. Ah, diciamo che il primo album delle doppie viti, Lago nel Pollaio, era originariamente un progetto di 12 pezzi. Adesso ce ne sono aggiunti altri perché stiamo già preparando il secondo lavoro, intanto che Lago nel Pollaio appunto è in fase di realizzazione, anche se saranno solo 4 pezzi. Alla fine siamo andati un po' a modo di discount. Beh, in tempi di crisi si c'è. Esatto. Taglio da parte. Ma che pensate? Ma quindi la canzone Hawaii è un momento che non fa parte della canzone. Esatto, la canzone di Hawaii sarà un singolo probabilmente del secondo album, che uscirà nel 2045, visto i tempi realizzativi del primo album. No, dai, si spera di no. Siamo comunque dentro, cioè. Sì, sì, saremo ancora vivi. La sentiamo. La sentiamo. Andare, prenotare per un viaggio a carnevale, mascherati a noleggio su una gondola a Venezia o a Viareggio. Io non posso venire, lo sai, potreste 100 cose da finire. E mi dai del bastardo, non l'hai detto, te l'ho letto nello sguardo. Perché girare attorno all'equatore? Già trovo dentro nei tuoi occhi il sole. E questo mi fa sentire come alle Hawaii, anche se non ci sono stato mai. mi fa sentire come alle Hawaii, anche se non ci sono stato mai, anche se non ci sono stato mai, e anche se non ci sono stato mai, anche se non ci sono stato mai. Benissimo, adesso siamo arrivati ad un punto della trasmissione in cui solitamente agli intervistanti si fanno delle domande, le cosiddette domande pazze. Oh. Il problema sai qual è? Qual è? È che secondo me queste domande non sono abbastanza pazze, capisci? Cioè, se fossero state altre persone, allora sì, cioè, ci poteva stare, ma con voi ragazzi giochiamo in casa. Impazziscile di più, porgicele in tedesco, che ne so. Vediamo, vediamo. Allora, prima domanda: nel vostro gruppo dovete dare in questo momento una scala di valore per quanto riguarda la follia di ogni singolo elemento. Lo so che non l'hanno ancora inventata, provateci però. Sì. Allora, chi è il più folle? Questa è la domanda. 10. Risponde il maestro Jack Giacomo. Allora, primo posto indiscusso, direi Lungo. Assolutamente il maestro Lungo, su una scala da 1 a 10 gli diamo un bel 15. Davvero? Sì, sì, sì. È più matto di tutti? No. Sono... Come dire, come definirlo? È indefinibile. Lui è come i Jedi erano in possesso della forza, lui ha il dono della geniale deficienza, diciamo. Sì, sì, sì. Però è come un Jedi proprio lui, e io mi ritengo un giovane Padawan ai suoi confronti. Perché? Sì, sì, sì. Mondi diversi proprio. Siamo da Marte alle Hawaii, addirittura all'universo dei geni. Bellissimo. Poi al secondo posto. Beh, non è che siamo tutti delle cime. Sì, direi che poi gli altri siamo tutti sullo stesso livello. Ah, quindi quello che spicca. Chi spicca maggiormente è sicuramente il maestro Lungo. E non solo in altezza, tu dici a questo punto è proprio perché. Sì, sì, sì, sì. Benissimo, la seconda domanda, forse un po' più... Più. Voi seguite il panorama fumettistico in generale? Leggevo il Topolino fino a 15 anni, poi dopo... Io ho smesso anche prima. Guardate i giornalini porno. Manga li conoscete? Sì, qualcosa. Personaggi manga? Forse più da mia nipotina che guarda i Pokémon. Allora, facciamo così. Se voi attualmente vi doveste identificare in un personaggio di fumetti o dei cartoni animati... Sì. Quale saresti? Paperino. Leggevo Topolino. Tu no, dici quello, sto leggendo. No, in assoluto. A me piacerebbe essere, com'è, lo zio di Paperino, quello che c'ha il grano. Zio Paperone. Ecco, bravo. Solo per il fatto del grano. Hai capito. Ci ha spezzato a tutti, eh? Io quello più povero in canna. Ognuno ha la sua via. Questa invece è una domanda che riguarda più il vostro gruppo, perché giustamente, come tutti i grandi gruppi, non sto a citare poi... Grandi adesso, è riduttivo. Esatto, infatti dicevo, cioè non voglio essere riduttivo perché sappiamo le vostre collaborazioni eccelse. Bravo, bravo, baciamo le mani, mi raccomando. Ma ogni gruppo ha le sue gruppi. Oh, guarda, tocchi un tasto. Guarda, noi non... Allora, di solito i gruppi cominciano a suonare perché... a 14 anni il ragazzino prende in mano la prima chitarra perché? Pensando forse al successo, probabilmente ha nella mente l'immagine illusoria delle grandi rockstar anni 80. Non c'è nulla di più sbagliato. Noi abbiamo incominciato a suonare per un motivo. Lo dici te, lo dico io. Lo cantiamo? La patata. Sempre sia lodata. Quindi, essendo tutti i nostri sforzi concepiti in quella direzione, più ancora che in quella musicale, siamo tra i maggiori diciamo importatori di gnocca d'Italia. Importatori nel senso anche che vengono dall'estero per seguirci. Esatto. Ad esempio, uno è venuto l'altra volta da dov'era? Rovellasca, mi sembra. Ah, Inizia, porca miseria! Il nostro stato è qua, è Saronno, finisce con Gerenzano. Comunque voi siete della zona. Sì. Sì, lui abita qui vicino, io sono del villaggio Brollo. Mizza, il villaggio Brollo. Villaggio Brollo. Chiao, devi fa, fa brutto. Fa. Che, sì, molto rispetto il villaggio Brollo, assolutamente. No, sì. Ma poi vabbè, siamo abbastanza disparati come. Disparati e disperati. Il maestro Lungo viene da Vimodrone. Porca miseria. Di, fuori Milano. Di Assof di Wolf. Come avete fatto a conoscere lui? Cioè, che cosa aveva? L'università, andavamo in università assieme, noi tre. E il maestro Treno viene da Lomazzo e il sindaco Cirio è indigeno saronnese. Ok. Ma autoctono. Per concludere la nostra intervista, diteci quali sono i vostri progetti per il futuro. Ma io vorrei riempire Wembley di gnocca, solo gnocca. Se vuoi biglietti, un paio di chiamate? Viene pure lui. Cazzo, ti ha detto gnocca, non è più pieno di gnocca. Scusa, già cominciamo male. Scusa, mi assento un secondo, faccio un paio di chiamate. La gnocca. No, progetti per il futuro. Assolutamente continuare a divertirci. È il primo progetto, il primo obiettivo. E poi niente, espandere sempre di più, esatto, i confini musicali, conoscenze, spostarci sempre più a suonare. Ma qual è il posto andare... più lontano dove avete suonato per ora? Lainate. Lainate, no? No, una sera io mi ricordo che siamo andati da qualche altra parte. Ah, però vero, mi ricordo bene il rientro. Eravamo forse in Brianza, vicino al Lume, Vimodrone, Cinisello. Abbiamo girato un po' nel Monzese anche, nel vicin milanese, quelle zone là. Sì, però sono state tutte date da dimenticare. Quarto Giaro. Porca miseria, già buono che siete usciti. No. Sì, no, beh, in realtà anche lì vediamo le nostre fan che ci proteggono, ci fanno da bodyguard proprio. I prossimi concerti saranno il 3 di settembre al Fuori Fuori, che è vicino al Santuario Saronno. Il weekend dopo, il sabato, parteciperemo al Festoria, che è il festival principale di Saronno. Suoneremo il sabato pomeriggio, credo, non so intorno a che ora. E poi la domenica, subito dopo, suoniamo alla Fiera del Conte a Solaro. I contatti per contattarci su Facebook, basta andare all'indirizzo www.facebook.com/ledopieviti. Abbiamo un sito che praticamente non ha niente, però si trovano gli agganci sia di Facebook che di MySpace, che è www.doppieviti.it, MySpace è www.myspace.com/doppieviti. E non c'è più nient'altro da dire. Se vuoi dare il tuo numero di telefono per fan aggiuntive. Se qualcuno vuole contattarci, siamo disposti a qualunque cosa. Vi imbianchiamo anche la casa pur di andare avanti. Io ci vorrei un paio di richieste. C'è la cantina da liberare, non è che potresti. No. Sì, sì, sì. Io vengo. Lui è disposto. Mando lui. Ascolta, però. Io ho solo le fan. Ho un buon vino, toscano. Allora vengo ancora più volentieri. E vengo anch'io. Così. Ragazzi, lui verrà sicuramente bene. Quando abbiamo finito. Grazie di tutto. Grazie a voi. È stato grazie. Davvero un piacere. A proposito di Festoria, quindi adesso vi lasciamo con un brano tratto dal nostro concerto dell'anno scorso, Festoria. Molto bello, è stato molto bello. Si chiama Suono Occupato. Che tra l'altro è il mio preferito. Oh, grazie, grazie mille. Di nuovo grazie a tutti ragazzi. Ciao a tutti gli amici ascoltatori di Radio Tassello e alla prossima. Ciao. Ciao. Però non dobbiamo fare... Telefonino dove l'ho lasciato, sarà caduto, me l'ha rappato. Dite che mi chiamo un po' da tutto il mondo, non ce la faccio, non rispondo. Stasera resto a casa con le luci spente, a guardare le stelle, pensando a niente. Suona il telefono, un po' mi rincuoro, qualcuno mi pensa però lo ignoro. Non ti preoccupare.